solamente bocca d'amarena, soffi ancora su di me come una preghiera dentro i fondi di un caffè. Ah, che male che mi mi prendi e poi mi adesso non mi un canto popolare, popolare nella notte, sale sale col rumore delle piazze, passionalità folcloristica per ballare con la sorte. Un canto popolare con il fumo di un sigaro, voglio dimenticare che di te io non ho niente, niente, niente, non mi rimane niente, niente. Oh! Ad un po' papà le pa, cosa stai dicendo? Dammi la felicità, chiudo gli occhi e ballo. Un canto popolare in una casa popolare, se mi tocchi puoi farmi quello che mi volevi fare. Non so cosa dire, non mi so più controllare, my god, dimmi cosa devo fare. Ah, che male che mi mi prendi e poi mi adesso non mi un canto popolare, popolare nella notte, sale sale col rumore delle piazze, passionalità folcloristica per ballare con la sorte. Un canto popolare con il fumo di un sigaro, voglio dimenticare che di te io non ho niente, niente, niente, niente, niente, niente, niente, niente, niente, niente, niente, niente, niente. Mamma mantra le mie mani nel cielo, mamma mambo dimmi qual è il segreto. Mamma mantra le mie mani nel cielo, mamma mamma la tua bocca è un canto popolare, popolare nella notte, sale sale col rumore delle piazze, passionalità folcloristica per ballare con la sorte. Un canto popolare con il fumo di un sigaro,